si tratta di lavorare insieme con il Ministro dell'Economia e del Tesoro per la stabilità e il recupero del debito pubblico, l'altra la questione del rilancio. Credo che sia Lega che il Popolo della Libertà abbiano concordato insieme col Ministro Tremonti e con il Presidente del Consiglio che su questi due paletti bisogna con forza procedere. Contemporaneamente ad una manovra che è già stata anticipata anche dal DEF, quella che lei ha accennato di circa 40 miliardi, si possa sin da subito innanzitutto confrontarsi e discutere, non di quello che prende Santoro con le nostre tasche, che non mi sembra la prima grande notizia, la notizia è sono i 2,5 milioni di euro, mi sembra che sia, confrontarci su il modello di riforma fiscale. Ci sono diverse discussioni che devono essere immediatamente portate a sintesi. Primo, quante aliquote dobbiamo portare? Qual è l'aliquota più bassa se si deve trasferire la tassazione dalle persone alle cose, quindi spostarla dall'IRPEF all'IVA con l'ipotesi ovviamente dell'aumento di 1-2 punti dell'IVA sui prodotti. Secondo elemento che secondo me si sta trascurando, da oggi inizia la discussione alla Commissione Bilancio e Finanze di un decreto dello sviluppo che non è indifferente, perché l'altra cosa che le imprese chiedono è, prima ancora che di contributi, è la deburocratizzazione, la semplificazione e il grande tema che è emerso, se è possibile fare una lotta all'evasione fiscale senza l'oppressione fiscale nei confronti di tutte le imprese come è avvenuto in questi anni. Mi sembra che questi siano stati i contenuti dell'incontro di ieri e che non debbano essere altro che questi. C'è un governo, se c'è una maggioranza stabile, abbiamo non un giorno ma 2 anni davanti, usiamo fino in fondo questi 2 anni per fare quello che i cittadini ci chiedono, cioè parlare meno e governare di più.